un qualche nulla, di una qualche ingannevole giustizia, armata di fucili o di parole. Siamo piccoli, piccoli, e si aggrappano anche loro, forti come me, a un cappio possibile. C'è qualcuno, una bestia, una bestemmia, qualcuno? Non sola. Senza peso di presenza e carne,

No. Al di sopra di esso risiede l'amore.